Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Il 124 era carico di rancore. Carico del veleno d'una bambina. Le donne lo sapevano e così anche i bambini. Per anni ognuno aveva cercato a modo suo di sopportare il rancore di quella casa. Ma nel 1873 le uniche vittime rimaste erano Seth e sua figlia Denver. La nonna, Baby Sachs, era morta e i due ragazzi, Howard e Bugler, erano scappati via a 13 anni. Non appena, al solo guardarsi nello specchio, questo si era frantumato, il segnale per Bugler, non appena erano apparse sulla torta le due minuscole impronte di una manina, il segnale per Howard. Nessuno dei due aveva aspettato di vedere altro. L'ennesima pignatta ricolma di ceci fumanti rovesciata sul pavimento, le gallette in briciole sparpagliate a terra lungo una linea parallela all'uscio di casa. Ne avevano atteso uno dei soliti periodi di calma, le settimane, i mesi persino, in cui niente veniva a turbare la quiete. No, erano svaniti, entrambi all'improvviso, nel momento stesso in cui la casa si era resa colpevole di ciò che ognuno di loro riteneva l'unico insulto da non potersi sopportare o vedere una seconda volta. Se n'erano andati nel giro di 2 mesi, nel cuore dell'inverno, abbandonando la nonna, Baby Sachs, la madre, Seth, e la sorellina, Denver, nella casa bianca e grigia di Bluestone Road. Questa, allora, non recava un numero civico, poiché Cincinnati non arrivava ancora fin laggiù. In verità, erano solo 70 anni che l'Ohio si era proclamato Stato, allorché i due fratelli, prima l'uno e poi l'altro, dopo aver infilato l'ovatta della trapunta nel cappello a mo' di imbottitura e aver agguantato le scarpe, si erano allontanati furtivamente da quella casa, che nutriva un vivo rancore nei loro confronti. Baby Sachs non alzò neppure il capo. Quando li sentì andar via, era a letto, malata. Ma non fu quella la ragione per cui se n'era rimasta sdraiata immobile. Già la stupiva il fatto che i suoi nipoti ci avessero messo tanto a rendersi conto che non tutte le case erano come quella di Bluestone Road. Sospesa tra la malvagità della vita e la cattiveria dei morti, per lei era indifferente se vivere o passare a miglior vita. Figurarsi se le interessavano due ragazzi che se la stavano svignando per la paura. Il suo passato era come il suo presente, insopportabile. E poiché già sapeva che la morte tutto poteva essere fuorché oblio, aveva deciso di usare le poche energie che le restavano per meditare sui colori. Porta dentro del lavanda, se ce n'è, se no del rosa. E pur di accontentarla, Seth si sarebbe servita di qualsiasi cosa, dalla stoffa alla propria lingua. Se uno aveva la smania per i colori, l'inverno dell'Ohio poteva risultare particolarmente duro. Baby Sachs morì poco dopo la partenza dei fratelli, senza interesse alcuno nello stabilire se a prendere commiato fosse stata lei o fossero stati loro. Subito dopo, Seth e Denver avevano deciso di porre termine a quella persecuzione, evocando lo spirito che le metteva a così dura prova. Pensavano che forse un po' di conversazione, uno scambio di vedute, alla fine potesse rivelarsi utile. Unirono quindi le mani dicendo «Dai, fatti avanti, se ci sei, fatti avanti». La credenza avanzò d'un passo, ma non successe altro. «Deve essere nonna Baby che blocca tutto», disse Denver. «Aveva 10 anni e ce l'aveva ancora con Baby Sax perché era morta». Seth aprì gli occhi. «Non credo», rispose. «E allora come mai non si fa avanti?» «Dimentichi quanto è piccola», rispose la madre. «Quando è morta non aveva nemmeno 2 anni. Era troppo piccola per capire e troppo piccola per parlare». «Forse non vuole capire», disse Denver. «Forse. Però se solo si fa avanti glielo potrei spiegare». Seth lasciò andare la mano della figlia e insieme spinsero la credenza contro la parete. Udirono un cocchiere che, passando davanti al 124, sferzava il cavallo al galoppo, così come del resto tutta la gente del posto sentiva il bisogno di fare quando passava di lì. «Certo che per essere soltanto una bambina fa una gran paura», disse Denver. «Ma non più grande del bene che le volevo», rispose Seth. Ed ecco che le tornò in mente il fresco accogliente delle lapidi non ancora sbozzate, quella che aveva scelto per appoggiarvisi in punta di piedi, tenendo le gambe divaricate come davanti a una fossa qualunque. La pietra era rosa, del colore dell'unghia, punteggiata di scaglie scintillanti. 10 minuti», le aveva detto l'uomo. «Per 10 minuti te la faccio gratis». 10 minuti per 10 lettere. Con altri 10 avrebbe potuto farsi scrivere anche «mia». Non aveva pensato di chiederglielo, e ripensandoci ancora le seccava il fatto che forse sarebbe stato possibile per 20 minuti, diciamo pure mezz'ora. Forse avrebbe potuto avere l'iscrizione completa, tutte le parole che aveva sentito pronunciare dal prete in occasione del funerale, che poi erano tutto quanto ci fosse da dire, è chiaro, scolpite sulla tomba della sua bambina. «Mia amatissima». Però quello che era riuscita a farsi fare, quello di cui si era accontentata, era l'unica parola che contasse realmente. Aveva creduto che potesse bastare. Lasciarsi montare dall'incisore, tra le lapidi, con il figlioletto di lui a far da spettatore, la rabbia sul suo volto così vecchia, il desiderio affatto nuovo. Avrebbe dovuto bastare sicuramente. Avrebbe dovuto bastare come risposta all'ennesimo predicatore, all'ennesimo abolizionista, a una città carica d'odio. Every man I get, if he don't get sick, he will die. Don't some woman take away from me on a doggone fly. I'm a bad luck woman. I'm a bad luck woman. I'm a bad luck woman. I can't see the reason why. Nell'abbandonarsi alla tranquillità della propria anima, aveva dimenticato l'esistenza di un'altra anima, quella della sua bambina. Chi avrebbe potuto pensare che nell'anima di una bambina potesse esserci tanta collera? Lasciarsi montare tra le pietre tombali, sotto lo sguardo del figlio dell'incisore, ancora non bastava. Non solo doveva continuare a sopravvivere in una casa paralizzata da una bambina furiosa, perché le avevano tagliato la gola, ma quei 10 minuti che aveva trascorso, schiacciata contro la pietra tempestata di scaglie stellate, e accesa dai colori dell'alba, a gambe divaricate sulla fossa, erano stati più lunghi della vita stessa, più vivi, più pulsanti del sangue della sua bambina, che le era colato lungo le dita come l'olio. «Si potrebbe andare da un'altra parte», aveva suggerito una volta la suocera. «E a che ti servirebbe?» le aveva chiesto Baby Sax. «Non c'è casa in tutto il paese che non sia piena fino al soffitto delle pene di qualche uomo di colore morto. È già una gran fortuna che questo qua è lo spirito d'una bambina. E se tornava il fantasma di mio marito o del tuo? No, non ti lamentare. Sei fortunata tu. Ne hai altri 3. 3 che ti stanno attaccati alla sottana e una sola che fa il putiferio dall'altro mondo. Dovresti dire grazie, no? Io ne ho avuti 8. Se ne sono andati tutti. 4 me li hanno presi, a 4 gli hanno dato la caccia e ho paura che siano tutti a fare diavolerie nella casa di qualcuno». Baby Sax si sfregò le sopracciglia. «Della prima che ho avuto, ricordo solo che le piaceva il pane bruciacchiato. Pensa un po' tu, 8 figli e mi ricordo solo quello». Il fatto è che non ti vuoi ricordare altro, le aveva risposto Seth. Anche a lei, però, non era rimasta che una sola, una viva, cioè. I ragazzi scacciati dalla bambina morta e il ricordo di Baglar che svaniva rapidamente. Howard, perlomeno, aveva un testone che non si poteva dimenticare. E quanto al resto, lavorava duro per non ricordare niente. O comunque, il meno possibile. Ma sfortunatamente, la sua mente deviava dal retto cammino. Per esempio, era lì che attraversava un campo quasi di corsa per andare lest al pozzo dove avrebbe potuto ripulirsi le gambe dalla linfa delle piante di camomilla. Nella sua mente non c'era altro. L'immagine degli uomini che venivano a succhiarle il latte era spenta. Spenta come i nervi della schiena nel punto in cui la pelle le si increspava come il piano di un asse per lavare. Né c'era il minimo sentore di inchiostro della gomma di ciliegio o della corteccia di quercia con cui veniva fatto. Niente. Solo la brezza che le rinfrescava il volto mentre si affrettava verso il pozzo. E poi, servendosi della pompa e di qualche straccio, si bagnava le gambe per lavar via la camomilla, con la mente rivolta solo all'intento di togliere fino all'ultimo millimetro di linfa, alla negligenza di aver incautamente preso una scorciatoia attraverso i campi per risparmiare poche centinaia di metri e non essersi accorta di quanto erano cresciute le erbacce finché non aveva cominciato a sentirsi prudere fino al ginocchio. Poi era bastato un niente. Gli spruzzi dell'acqua, la vista delle scarpe e delle calze di traverso sul viottolo dove le aveva gettate, Here Boy che leccava l'acqua della pozzanghera vicino ai suoi piedi. E all'improvviso le era apparsa Sweet Home. Si era srotolata davanti a lei, come un tappeto, per chilometri e chilometri. E anche se in quella fattoria non c'era una sola foglia che non le facesse venir voglia di urlare, essa si srotolava davanti ai suoi occhi con una bellezza spudorata. Non le si presentava mai così orrenda come era in realtà. E questo la portava a chiedersi se per caso anche l'inferno non fosse in fondo un bel posto. D'accordo, c'erano il fuoco e lo zolfo, però celati da un boschetto tutto merlettato. I ragazzi impiccati ai più bei platani del mondo. Che vergogna ricordarsi quegli splendidi alberi che gemevano al vento e non dei ragazzi. Per quanto si sforzasse, i platani avevano sempre la meglio. Ed era una cosa che non riusciva a perdonare alla propria memoria. Quando l'ultima traccia di camomilla fu scomparsa, Seth si avviò verso la casa, dopo aver raccolto calze e scarpe. Quasi a volerla punire ulteriormente per la sua indegna memoria, seduto sulla veranda, a non più di 10 metri, stava Paul Dee, l'ultimo uomo di Sweet Home. E, anche se non avrebbe potuto mai scambiare il suo volto per quello di un altro, gli chiese: «Ma sei proprio tu, quello che resta?» Si alzò e le sorrise. «Come te la passi, ragazza mia, a parte startene scalza?» La risata di Seth risuonò fresca e giovane. «È che mi sono imbrattata le gambe laggiù con la camomilla!» Lui fece una smorfia come se avesse assaggiato un cucchiaino di qualcosa d'amaro. «Non me la nominare nemmeno quella roba là! L'ho sempre odiata!» Seth raggomitolò le calze e se le cacciò in tasca. «Su, entra!» «La veranda va benissimo, Seth. Fa più fresco!» Tornò a sedersi e guardò il prato dall'altro lato della strada, consapevole che il proprio volto avrebbe tradito l'impazienza che provava. 18 anni, disse Seth piano. 18 anni, ripeté lui, e ti posso giurare che me li sono fatti tutti camminando. Ti dispiace se faccio come te? Disse, accennando col capo ai piedi di Seth e cominciando a slacciarsi le scarpe. Vuoi metterli a mollo? Ti prendo un catino d'acqua. Si avvicinò a lui per entrare in casa. No, mica me li posso viziare. Ne hanno ancora di strada da fare. Non te ne puoi andar via subito, Paul Dee. Devi fermarti un poco. Beh, almeno il tempo di vedere Baby Sax. Dov'è? È morta, Oh no. Quando? Sono 8 anni, quasi 9. Ha sofferto? Spero che non abbia sofferto. Seth scosse il capo. Ha avuto una morte dolce come il miele. La pena è stata vivere. Comunque mi dispiace che tu non la possa vedere. È per questo che sei venuto qua. Sì, ma non solo. Anche per te. Però, se devo proprio dirti tutta la verità, di questi tempi vado dove capita, dove mi lasciano in pace. Ti trovo bene? È il diavolo che ci mette lo zampino. Quando sto male, mi dà l'aria di uno che sta bene. Poldi la osservò e la parola male assunse subito un altro significato. Seth sorrise. Un tempo erano così, erano stati così. Tutti gli uomini di Sweet Home, prima e dopo Hall, la viziavano con una sorta di tenero corteggiamento fraterno, talmente elusivo che per scorgerlo bisognava cercarlo con il lanternino. Fatta eccezione per un sacco di capelli in più e un certo senso di attesa nello sguardo, Poldi aveva lo stesso aspetto dei tempi del Kentucky. La pelle color nocciolo di pesca, la schiena eretta. Per un uomo dal volto impassibile era sorprendente la prontezza con cui sapeva sorridere, infiammarsi o dispiacersi per la persona che aveva davanti a sé. Come se bastasse solo ottenere la sua attenzione perché in lui si producesse lo stesso stato d'animo del suo interlocutore. Meno d'un batter di ciglia ed ecco che il volto cambiava. Pareva nascondere sempre qualche attività segreta. Non c'è bisogno di chiederti di lui, vero? Altrimenti me l'avresti detto, no? Seth abbassò lo sguardo e si vide di nuovo davanti ai platani. Certo che te l'avrei detto. Te l'avrei detto, sì. Ma non so niente più di allora. A parte la zangola, pensò Poldi. Però questo tu non hai bisogno di saperlo. Quindi, secondo te, è ancora vivo? No, secondo me è morto. È la mancanza di certezza che lo tiene vivo. Baby Sachs, che cosa pensava? Lo stesso. Però a sentir lei i suoi figli erano morti tutti. Diceva che quando se n'erano andati all'altro mondo li aveva sentiti uno per uno, il giorno e l'ora esatta. E secondo lei, Hall, quando è che se n'è andato? Nel 1855, il giorno che è nata mia figlia. Allora l'hai poi avuta, quella bambina. Non pensavo che ce l'avresti fatta. Rise piano. Scappare via incinta. Dovevo. Mica si poteva stare lì ad aspettare. Abbassò il capo e pensò, come lui del resto, alle scarse probabilità che aveva avuto di farcela. E se non fosse stato per la ragazza in cerca del velluto, non ce l'avrebbe mai fatta. E poi, tutta sola. Era fiero di lei e allo stesso tempo seccato. Fiero perché ce l'aveva fatta. Seccato perché c'era riuscita senza bisogno né di Hall né di lui. Quasi sola, non tutta sola. Ma ha aiutato una ragazza bianca. Ah, se è così, allora si è aiutata anche lei. Che Dio la benedica. Puoi restare qui stanotte, Poldi. Non mi sembri troppo convinta dell'offerta. Seth voltò il capo di lato, verso la porta chiusa. Oh no, te lo dico sinceramente. Spero solo che scuserai la casa. Su, entra. Fa 2 chiacchiere con Denver, mentre io intanto ti preparo qualcosa da mangiare. Poldi legò insieme i lacci delle scarpe, se le mise in spalla e la seguì oltre la soglia, finendo dritto in una pozza fluttuante di luce rossa che lo fece bloccare immediatamente. «Ma c'è qualcuno qui?» «Ogni tanto», rispose Seth. «Santo cielo!» Poldi arretrò verso la soglia e ritornò sulla veranda. «C'è qualcosa di maligno lì dentro! Che diavolo è?» «Non c'è niente di maligno. È solo triste. Dai, entra dentro!» Aveva ragione lei. Era triste. Attraversando quella pozza, Poldi si sentì lambire da un'onda tale di dolore che gli venne voglia di piangere. Pensava che non sarebbe giunto mai alla luce normale intorno al tavolo, però riuscì ad arrivarci sano e salvo e senza lacrime. «M'hai detto che ha avuto una morte dolce, dolce come il miele», le rammentò Poldi. «Non è Baby Sachs», rispose lei. «Chi è allora?» «Mia figlia, quella che avevo mandato avanti con i bambini». «Non ce l'ha fatta?» «No, m'è rimasta solo quella che mi portavo nella pancia quando sono scappata via. Anche i ragazzi se ne sono andati. Se ne sono andati tutti e due poco prima che Baby Sachs morisse». Poldi guardò nel punto in cui il dolore l'aveva avvolto. Il rosso era sparito. Però nell'aria restava avvinghiata una specie di pianto. «Meglio così, probabilmente», pensò. «Se un nero aveva le gambe, doveva usarle. Se si stava seduti troppo a lungo, qualcuno prima o poi avrebbe trovato il modo di legarle. Ma allora, se i ragazzi se n'erano andati, non c'è nessun uomo? Te ne stai qui tutta sola?» «Con Denver», rispose. «E a te sta bene così?» «A me sta bene così». Seth notò il suo scetticismo, ma continuò lo stesso. «Faccio la cuoca in un ristorante giù in città e faccio qualche lavoro di cucito, di nascosto». Poldi allora sorrise, ricordandosi del suo abito nuziale. Quando era arrivata a Sweet Home, Seth aveva 13 anni e aveva già quello sguardo di ferro negli occhi. Era stato un regalo, giunto al momento opportuno, per Mrs. Garner, la quale aveva perduto Baby Sachs grazie agli alti principi del marito. I 5 uomini di Sweet Home avevano esaminato la nuova venuta e avevano deciso di lasciarla tranquilla. Erano giovani e non ne potevano più della mancanza di donne, al punto che si erano dati a farsi i vitelli. Eppure avevano lasciato tranquilla quella ragazza dallo sguardo di ferro, affinché fosse lei a scegliere, incuranti del fatto che ognuno avrebbe ridotto gli altri in poltiglia pur di averla. Le ci era voluto un anno per scegliere. Un anno interminabile, duro, fatto di sonni agitati sui pagliericci, divorati dai sogni su di lei. Un anno fatto di brame inappagate, quando la violenza carnale sembrava il solo dono che la vita potesse offrire. Il freno che si erano imposti era stato possibile solo perché erano uomini di Sweet Home, quelli di cui Mr. Garner andava tanto fiero, mentre gli altri coloni, al sentire quei suoi discorsi, scuotevano il capo come per metterlo in guardia.